Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Dagli sbagli si impara. Gli sbagli ti attirano verso il fondo. Il finale poi dipenderà da te. Sbagliare è facile. Il segreto è nel capirlo. La notte porta consiglio. Dagli sbagli si impara. Sbagliando si impara, sembra una frase consolatoria buttata lì per tirare un po' sul morale alla persona che ha sbagliato, per dirgli insomma dai, tutto aiuta, tutto serve. In realtà questo modo di dire contiene una grande verità: siamo attrezzati per imparare dai nostri errori e abbiamo un alleato formidabile, il nostro cervello. È lui che, quando stiamo per fare uno sbaglio che abbiamo già commesso, lui che è intelligente, si attiva e fa partire un segnale di avvertimento. In linea con noi la dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Buongiorno dottoressa Luini, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, il cervello ci avverte che sì, stiamo cadendo di nuovo nella stessa trappola e manda un segnale. Sì, ci sono alcuni studi, uno in particolare, uno studio inglese che mi piace tantissimo perché è stato detto che il cervello è intelligente, ma il cervello è anche molto istintivo. In questo studio alcune persone sono state stimolate a prendere decisioni sulla base di alcune informazioni che ricevevano progressivamente. E alcune informazioni prima o poi facevano cadere nell'errore queste persone. A quanto pare, misurando l'attività del cervello, si è visto che una volta che l'errore si era verificato, il cervello in 0,1 secondi, se esposto di nuovo a quell'informazione là che aveva fatto sbagliare la persona, reagiva, avvisando del potenziale errore. E questa era una reazione talmente istantanea e legata anche a una parte del cervello talmente, se vogliamo, istintiva, di pancia, mettiamola così un po' impropriamente, che non poteva essere legata a ragionamento. A quanto pare il nostro cervello è molto più capace di riconoscere gli errori rispetto, per esempio, alle cose giuste che facciamo, e ci avvisa subito, scatta qualche cosa che ci avvisa. Certo che però c'è chi dai propri sbagli impara sul serio e chi invece ostinatamente continua come se nulla fosse. E voi imparate dai vostri errori o tendete a ricaderci? 800 24 00 24. Dottoressa Luini, grazie per essere stata con noi, buona giornata. A voi, buona giornata. Forse le nostre vecchie ferite ci insegnano qualcosa. Ci ricordano dove siamo arrivati e cosa abbiamo superato. Ci danno lezioni su cosa evitare in futuro. È questo che ci piace pensare. Ma non è sempre così, vero? Buongiorno al dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, esperto anche del nostro Daily Lab. Bentornato. Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Dottor Aquilar, il cervello, insomma, è rapido e fa la sua parte, manda un avvertimento, ma c'è chi lo sa cogliere e chi quindi ne fa tesoro e chi invece non lo riconosce e sbaglia. Certo, anche perché il cervello è solo una parte, l'altra parte è la mente, cioè quella che in qualche modo noi comandiamo e che è ancora più complessa. E questa può essere, come dire, l'occasione intanto per cominciare a chiedere delle cose ai nostri ascoltatori che potrebbero eventualmente rispondere. Io comincerei con tre domande. La prima: qual è l'errore che i nostri ascoltatori fanno più spesso? La seconda: qual è l'errore che hanno smesso di fare e perché? E la terza: qual è l'errore che ha consentito loro di imparare più cose? Bello, allora, qual è l'errore che commettete più spesso? Possiamo anche parlare al plurale, gli errori, vero? Certo, non c'è limite. No. Certo, non c'è limite, anche perché la capacità di apprendere dall'esperienza, come ci diceva prima anche la dottoressa Luini, è una capacità fondamentale. Noi potremmo cercare di potenziare le abilità dei nostri ascoltatori che già sono capaci di apprendere dall'esperienza, mm-hmm, e potremmo insegnare a coloro che invece si accorgono che magari in alcuni settori, che so, in amore, ripetono sempre gli stessi errori, come fare per cominciare a modificare il loro comportamento in modo da avere meno errori. Dottor Aquilar, perché ha detto l'amore? Perché è questo un campo in cui spesso torniamo a ripetere gli stessi errori? Nel nostro lavoro psicoterapeutico sono gli errori di cui maggiormente si lamentano le persone, perché spesso è facile imparare a correggere un errore nella propria attività lavorativa, perché ci sono degli effetti che consentono di correggere il tiro. Mentre invece in amore e secondariamente anche nell'amicizia, le persone inconsapevolmente tendono a ripetere sempre gli stessi schemi, ecco perché è un settore speciale di apprendimento dagli errori, quello dell'amore. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, per imparare ad imparare dagli errori o per specializzarci, perfezionarci, se degli errori sappiamo già fare tesoro e quindi li sfruttiamo come un'opportunità. Naturalmente, come sempre, potete seguirci su Facebook e su Twitter o mandarci un messaggio al 349-238-6666. Dottor Aquilar, allora? Allora noi possiamo cominciare a riflettere su noi stessi e sul nostro dialogo interno, cioè su quello che noi diciamo a noi stessi, sia mentre stiamo svolgendo un compito, che può essere un'autoistruzione che si facilita o che ci danneggia, sia subito dopo, quando abbiamo riconosciuto o ipotizzato di aver commesso un errore. Quindi noi possiamo fare un'altra distinzione tra le persone che hanno una buona capacità di valutazione di se stessi, che quindi riconoscono quando hanno commesso un errore ed è più facile che queste persone possano correggere il loro comportamento, e quelli invece che sono più inconsapevoli, che non ammettono di avere sbagliato. Allora, al primo posto dobbiamo sapere che è normale sbagliare, che ci autorizziamo a sbagliare e che un'esperienza è veramente negativa solo quando non ci consente di imparare niente. Quindi noi potremmo anche invitare i nostri ascoltatori a riflettere su alcune altre questioni, per esempio che cosa dici a te stesso quando ti accorgi di aver fatto un errore, oppure quanto dura la fase di autoattacco che alcune persone si fanno, cioè di autocritica serrata e a volte anche cattiva contro se stessi, perché se dura poco va benissimo, se dura molto dobbiamo cercare di ridurla. E un'altra domanda che potremmo porre è: che cosa ti dici per perdonarti e per incoraggiarti per la prossima volta? Perché anche questo potremo eventualmente riprenderlo su Facebook, oltre che rispondere agli ascoltatori in diretta. Naturalmente, quindi se volete intervenire, se volete scrivere, noi siamo qui e in linea abbiamo Claudio da Milano. Buongiorno Claudio, benvenuto. Buongiorno. Allora, Claudio, lei impara o è come me cociutamente ignorante? Mi perdoni, scusi, non ho capito. Lei impara dai suoi errori o, come me, è cocciutamente ignorante? Idem. È uguale, va bene. Allora dai, Claudio, che oggi impariamo. No, allora, il discorso è questo. La trasmissione oggi è molto interessante perché mi riguarda proprio da vicino. Il mio cervello purtroppo è tardo, non lo so. È tardo. Io penso tanto alle cose prima di farle, prima di dirle. Nel momento in cui l'ho fatta e l'ho detta e mi accorgo che è un... cioè, il mio cervello mi dice: hai sbagliato totalmente, ed è vero, l'approccio era totalmente sbagliato, ma io ci ho messo magari, che ne so, 2 giorni per pensare la frase. Nel momento in cui la dico, il mio cervello mi dice: hai visto che hai sbagliato, ma è vero, è... come mai? Allora, Claudio, forse ci mette troppo. Forse pensa troppo, ma chiediamo al dottor Aquilar. Intanto ci ha preso? Bisogna ogni tanto anche buttarsi. Non è il tardo il suo cervello, è lui che si attarda troppo a pensare. Infatti è un eccesso di preparazione. È come se noi facessimo un allenamento troppo forte e facendo l'allenamento troppo forte poi al momento della partita siamo senza forze. Il suggerimento che dovremmo dare a Claudio, che era anche quello che diceva prima la dottoressa Luini, è di fidarsi di più della capacità cosiddetta istintiva, cioè della possibilità che, stando attenti alle proprie emozioni, è più facile rispondere in maniera adeguata a quello che succede davvero. E facendo questa prova probabilmente potrà anche sbagliare, ma certamente di meno. Quindi alla prossima volta, Claudio, che cosa deve fare? Buttarsi un po' di più. Ridurre il tempo di preparazione per l'evento, cioè per esempio decidere di pensarci un quarto d'ora, poi mette la sveglia sul telefonino e a quel punto cerca di distogliere l'attenzione finché l'evento non capita. Claudio, a che cosa sta pensando adesso? Così facciamo bene, ci dica, quale decisione sta prendendo? No, ma in senso lato io Io ho un rapporto sempre con le persone, lavoro in un campo che ho sempre rapporto sempre con le persone, quindi non lo so, magari oggi pomeriggio avrò l'occasione di dover fare qualcosa, cercherò di essere più istintivo. Tutto qui. Claudio, se ha bisogno scrive sulla nostra pagina Facebook e sicuramente il dottor Aquilar fa un passaggio e magari l'aiuta a non sbagliare. Andiamo ad Alessandro che ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno a lei. Come va? Ma non c'è male, grazie. Dai, dai allora, che è venerdì. Sì, il weekend si avvicina. No, il professore prima ha fatto tre domande, sì. L'errore che si ripete più spesso e così via. Adesso quella di mezzo l'ho scordata, però sull'errore che si ripete più spesso, anche visto quello che diceva Claudio adesso, io cerco di prevedere continuamente quello che accadrà e sbaglio sempre. Cioè in relazione in particolare ai rapporti umani, quando magari so che per lavoro o per altro devo vivere un conflitto con qualcuno o un possibile conflitto, io passo delle ore a immaginare tutte le possibili domande e risposte, tutte le possibili reazioni, se io gli dico così lui mi risponde cos'ha e così via. Poi quando si arriva al dunque succede sempre qualcosa di completamente diverso da tutte le mie teorie, per cui spreco un mucchio di tempo e di ansia. In un certo e anche, diciamo Alessandro, anche di energie. E anche di energie, senz'altro, perché passo ore e ore a cercare di calcolare tutte le variabili, ma poi inevitabilmente... Le altre due domande, così intanto il dottor Aquilar magari pensa per lei un suggerimento, un consiglio, le altre due domande del dottor Aquilar erano: qual è l'errore che abbiamo smesso di fare? Anche lei, Alessandro, avrà un errore che non fa più, no? Sì, esatto, sì, che poi si lega alla terza, cioè l'errore da cui si è imparato, però questo... non riguarda me direttamente, perché ho un genitore, vabbè, mia madre. Tutti li abbiamo, sì. Esatto, che ha una tendenza a pensare di sapere che cosa è meglio per gli altri e quindi in un certo qual modo a interferire, con le migliori intenzioni, ma a interferire nella vita altrui. Ecco, siccome io evidentemente non so se sia genetico, ho la stessa tendenza a livello teorico, però guardando lei e soprattutto guardando le reazioni dei suoi interlocutori quando si prodigava in consigli non richiesti, ho imparato a trattenermi. Cioè da un errore altrui io riesco a volte a fatica a non interferire nella vita delle altre persone. Beh, questo non è poco, Alessandro, imparare dagli errori degli altri è abbastanza difficile, quindi bravo. Dottor Aquilar, che dice di Alessandro? Sono d'accordo e sono d'accordo sul fatto che imparare dagli errori degli altri è il più alto livello di apprendimento dagli errori. Non tutte le persone sono capaci di farlo e possiamo affinare questa nostra capacità e complimenti ad Alessandro che ci è riuscito. Inoltre, rispetto all'errore di Claudio che era un eccesso di preparazione, mi sembra che Alessandro faccia un errore di eccesso di perfezionismo. E l'eccesso di perfezionismo ci mette in ansia e ci mette in condizioni di non riuscire a risolvere bene il problema. Due suggerimenti facili. Il primo è ridurre l'obiettivo del proprio risultato. Ci conviene, anziché puntare al 10, puntare molto semplicemente al 6. Sarà più facile ottenerlo, il 6 nella relazione, il 6 nel rapporto di lavoro, il 6 nell'obiettivo che di volta in volta ci poniamo. E forse magari ci scapperà anche il 7 e l'8. Ma se puntiamo al 10... questo aumenta la nostra probabilità di avere un fallimento. Secondo punto, anziché fermarci soltanto sul pensiero, conviene fermarci anche sulle emozioni, che sono delle potentissime forme di conoscenza. Se io mi sono preparato troppo a lungo e ho troppo riflettuto, non sto attento a quello che provo io mentre sono in compagnia dell'altra persona e a quello che prova l'altra persona. Quindi l'idea sarebbe focalizzarsi un po' di più su quello che si sta provando, perché questo ci consente di avere una migliore relazione. Quindi, dottor Aquilar, se ho capito, quello che lei mi sta dicendo è che la differenza tra chi impara e chi non lo fa è il modo diverso di porsi di fronte all'errore. Certamente, il modo diverso di porsi di fronte all'errore, la possibilità di perdonarsi quando si sbaglia, ma anche la capacità di non esagerare in perfezionismo e di stare attenti alle emozioni che si provano, perché sono le emozioni che ci consentiranno di sbagliare di meno. E a proposito di errori, si sbaglia anche per imitazione, per volersi dare un tono, per volere apparire. Cultura letteraria? Sì. Scientifica? O spicciola? Sono tre buste, no? Io devo scegliere tra tre buste. Spicciola, d'accordo. Cos'è la prostata? Dunque, sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra. Dunque, dicevo che è una posizione... Donna in stato di... adorazione. No, ecco, mi sovviene. È un dolce. Lo faceva anche mia mamma. È la prostata. La prostata di... si può fare di metilo, di pera... è l'imperatore romano, è l'eresiarca bizantino, Giuliano la prostata. In linea con noi il professor Giuseppe Patota, professore di storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Siena e Arezzo e autore, con Valeria Della Valle, di Piuttosto che le cose da non dire, gli errori da non fare, Sperlin Editore. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, tra ben 300 strafalcioni raccolti nel vostro libro, la palma va a Piuttosto che, uno dei modi di dire più diffusi, soprattutto al nord. Sì, ma sa perché in questo caso la palma va proprio a Piuttosto che? Devo dire che noi linguisti, e Valeria Della Valle e io in particolare, non siamo dei linguisti, non siamo cattivi né severi. Siamo sicuramente più indulgenti nei confronti dell'errore di lingua di molte persone che non fanno il nostro stesso mestiere, però che cosa ci infastidisce o, se preferisce, ci fa sorridere un po'? Ma intanto la pervicacia nei confronti dell'errore e poi un po' anche la presunzione. Lei ha fatto il caso di Piuttosto che, da questo punto di vista è esemplare e non per caso l'abbiamo scelto per il titolo del nostro libro. Piuttosto che un'espressione che in sé non ha niente di male, naturalmente, è un'espressione nobile che nasce con la storia stessa dell'italiano. Pensate che le sue prime attestazioni si trovano nella retorica di Brunetto Latini e nella versione toscana del Milione di Marco Polo. Però qual è il problema? Che da che italiano è italiano e anche da che grammatica è italiana, Piuttosto che vuol dire più che, cioè ha un valore comparativo. Se dico mangio la carne piuttosto che il pesce, vuol dire che mangio la carne e non il pesce, che preferisco la carne al pesce. Però da qualche anno si è diffuso, soprattutto al nord, perché era un'abitudine del nord e anche in questo non c'è nulla di male, si è diffusa l'abitudine di adoperare quel piuttosto che al posto di o, quindi con un valore non più comparativo ma disgiuntivo. E allora si dice e si sente dire, ma insomma possiamo andare al cinema piuttosto che al teatro, piuttosto che al ristorante, piuttosto che non so che cosa. La cosa un po', dunque, intanto è un uso sbagliato perché crea ambiguità nella comunicazione, ma che cosa può infastidire o almeno infastidisce il linguista? Che ormai Piuttosto che è percepito da molti come una variante elegante rispetto a O. Allora, ciò che dà fastidio, naturalmente, come al solito, non è l'errore, ma la supponenza. Se mi dà qualche altro secondo di tempo, le faccio un paio di esempi significativi da questo punto di vista che non riguardano Piuttosto che. Volentieri. Allora, guardi, due esempi di segno opposto, così non si potrà dire che io faccia il tifo per l'uno o per l'altro. Un po' di tempo fa l'onorevole Micaela Biancofiore è stata, devo dire, insomma, presa benevolmente e anche giustamente, a mio avviso, presa in giro da Antonio Stella che in un articolo, insomma, testi alla mano, ha fatto vedere quali e quanti fossero i suoi errori di ortografia, i suoi errori grammaticali, ce n'è scritto con l'apostrofo sbagliato, po' scritto con l'accento, eccetera, eccetera. Fin qui, le dico, da linguista, dico, vabbè, niente di male, può succedere. Quel che mi ha colpito, infastidito e fatto sorridere è stato che la Biancofiore ha risposto: ah, insomma, questo è un attacco politico, quegli errori dipendono dal fatto che digitando sul tablet o sullo smartphone le cose escono fuori così. Ma non è affatto vero. Se errore, uno digita, anzi bugia. Facciamo l'altro esempio. Su Twitter a Roberto Saviano, ecco, per dimostrare la mia imparzialità, è scappato di penna o, se preferisce, di tastiera un qual è con l'apostrofo. Ora, qual è? Ma non fa niente, non fa niente. La cosa, insomma, ci si può chiudere un occhio, ecco. Però quando a Saviano la cosa è stata fatta notare, ha risposto: beh, insomma, continuerò a scrivere qual è con l'apostrofo, un po' come facevano Verga e Pirandello, ma non c'entra niente, perché quando Pirandello scriveva la norma dell'italiano era diversa. Un ultimo esempio che non riguarda la lingua, ma insomma, se la ministra Gelmini sul tunnel dei neutrini, ve lo ricordate il tunnel dei neutrini, si fosse semplicemente scusata dicendo è stato un errore del mio ufficio stampa, beh, insomma, avremmo avuto poco da dire. Quando invece ha detto che chi la criticava per questo e la prendeva in giro per questo l'attaccava politicamente, tac, lì secondo me ha sbagliato. Il problema non è l'errore, ma la presunzione, come al solito nella vita. Grazie, grazie al professor Giuseppe Patota per essere stato con noi, per averci dato anche delle indicazioni per l'utilizzo di questo benedetto piuttosto che. Stanno già arrivando dei messaggi, lei ha mandato veramente in visibilio gli ascoltatori che bacchettano sempre me per prime, alcuni ospiti che usano magari i modi di dire o parlando, sa, capita, bisogna ammetterlo, e quindi io la saluto, professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e grazie a chi sta scrivendo messaggi. Grazie. Allora, possiamo sbagliare, professor Aquila, però è meglio ammetterlo. Ammetterlo con noi stessi per imparare, ammetterlo anche con le persone con cui abbiamo delle relazioni. Insomma, senza arrampicarci sugli specchi. Sergio, dalla provincia di Monza Brianza, buongiorno. Buongiorno, Nicoletta, e buongiorno ai suoi ospiti. Eccoci qua. Ecco, io volevo dire, a me dà fastidio tanto quando ti devono dire quello che devi fare o devi leggere nel loro pensiero. Ecco, io a questo errore non do dei consigli e poi lascio agire. Oppure io faccio autista di professione, quando qualche macchina ha qualche situazione cerco di capire l'atteggiamento che può avere con l'autista per evitare comunque alcuni incidenti. E poi? Risolto un problema che davo fastidio. Qual è? Ecco, che io russavo e mi dicevano sempre che russi non ti fai dormire. Allora ho inventato un aggeggio per non russare. Bravo, e funziona? Però il russamento non è un errore, non posso passarglielo questo. Perché vabbè, però io un errore che ho risolto. Va bene, è un difetto, possiamo dire così. Sì, è un difetto, ma io lo sentivo come... Un errore, sentiva come una mancanza. Dottor Aquilar. Beh, certamente è interessante quello che ci racconta Sergio, perché tocca due argomenti molto importanti. Al primo posto lui diceva, mi dà fastidio quando dicono quello che devi fare. E in realtà questa è la logica dell'imperativo. Per alcune persone è particolarmente fastidioso quando l'interlocutore usa l'imperativo magari fuori luogo. E la seconda cosa è quando gli altri vogliono che uno legga nel pensiero. Sia l'uso dell'imperativo sia il leggere nel pensiero non è un errore, diciamo, di Sergio, è un errore comunicativo dell'interlocutore. Che cosa può diventare un errore per noi? Quando ci lasciamo trascinare da un'emozione negativa di rabbia e perdiamo la lucidità in risposta. Quindi, ancora una volta, la soluzione sta nel dialogo interno. Se noi riconosciamo che il problema sta nell'interlocutore e non in noi, possiamo far finta di niente e ridefinire la cosa in un altro modo. Questo ci eviterà di fare un errore in risposta. Leggo un messaggio di Massimo di San Gimignano. Cado spesso nel solito errore, cioè quando mi arrabbio divento verbalmente un uragano e non riesco a chiudere la bocca con la povera persona che mi capita sotto mano. Non riesco a controllare la mia reazione. Come posso fare? Non deve sbagliare Massimo, deve continuare ad ascoltarci. Noi adesso andiamo a sentire i mercati, poi il meteo, poi torniamo di nuovo qua. 800 24 00 24, qual è l'errore che commettiamo più spesso, qual è l'errore che abbiamo smesso di fare e impariamo in sostanza dai nostri errori? Essere e benessere. Dagli sbagli. sbagli si impara. Gli sbagli ti attirano verso il fondo, il finale poi dipenderà da te. Sbagliare è facile, il segreto è nel capirlo, la notte porta consiglio. Dagli sbagli si impara. Gli sbagli ti attirano. Dagli sbagli si impara, me lo state scrivendo, ma tante volte continuiamo a fare gli stessi errori. Abbiamo letto un messaggio di Massimo che ci racconta via SMS al 349-238-6666 che cade spesso nel solito errore, diventa quando si arrabbia un uragano e non riesce proprio a trattenersi. Ma sono tanti gli ascoltatori anche che ci scrivono su Facebook, dottor Aquila, ad esempio. L'errore che ripeto è quello di fidarmi degli altri. L'errore da cui ho imparato di più è quello di non avere sempre un piano B nelle circostanze importanti. Un altro post: l'errore che ripeto più spesso è quello di pensare in negativo nell'attesa di un esame, di un esito, di un'aspettativa, in modo da evitare l'eventuale delusione. Ma la verità è che così ci si rovina sia l'attesa che l'esito finale, e la delusione non la si evita. Comunque sarebbe bello di smettere di fare questo errore. Come fare? In fondo, in questo posto l'ascoltatore si dà anche già una spiegazione, ci dà un'indicazione. Ma dottor Aquila, partendo da Massimo da San Gimignano e così leggendo anche i due messaggi di Facebook, che cosa possiamo raccontare? Come possiamo aiutare gli ascoltatori, che noi abbiamo diviso in due profili: chi impara dagli errori e quindi può perfezionare, e invece chi dagli errori sembra non impari niente? I nostri ascoltatori ci fanno capire che i settori che dobbiamo tenere presenti sono sostanzialmente due. Uno è il settore delle emozioni e un altro è il settore dei pensieri. E su ognuno di questi settori, più facciamo passi avanti nella comprensione, più possiamo modificare il nostro comportamento. Per esempio, Massimo di San Gimignano non ha tanto un problema di errori, ha un problema nella gestione della rabbia, che è un'emozione chiara, presente, forte, e che segnala la presenza di un competitore e che probabilmente attiva in lui delle reazioni automatiche che potrebbero, come lui ci racconta, danneggiarlo. Quindi l'idea è di fare un tema che si chiama la mia rabbia, ieri, oggi e domani, e provare a modificare la sua impostazione emotiva cambiando il tipo di pensiero. Mentre invece per le altre questioni che ponevano, per esempio l'errore è fidarsi degli altri, attenzione, non dobbiamo sostituire un errore ad un altro errore, possiamo modulare la nostra teoria. Il problema non è fidarsi degli altri, è fidarsi degli altri non riuscendo a distinguere quelli di cui fidarsi e quelli di cui non fidarsi, e quindi possiamo allenarci nella differenziazione piuttosto che rinunciare tu cura alla fiducia che invece ci serve sempre. Non avere un piano B sicuramente può essere un problema, e dobbiamo però evitare l'errore degli ascoltatori perfezionisti della prima parte della puntata, che hanno il piano B, il piano C, il piano D, il piano E, il piano F, e si perdono l'emozione del momento. E poi può capitare il piano R. Esattamente. Ecco, quindi non che serve, non hai previsto, e quindi ti trovi spiazzato. Quindi ancora una volta dobbiamo stare attenti alle nostre emozioni, che ci consentono di reagire in maniera adeguata a cambiamenti improvvisi dello scenario, e dobbiamo stare attenti a quello che ci raccontiamo. L'altro ascoltatore, che raccontava l'idea sua di pensare in negativo e di essere ovviamente a questo punto pronto a ricevere ulteriori delusioni, è sul tema delle aspettative. Le nostre aspettative dobbiamo imparare pian piano a ridurle, a non renderle rigide, e a sapere anche che quando un'aspettativa nostra non si verifica non è detto che sia un male, a volte può essere una sorpresa, così come dicevamo prima che da un errore può nascere una straordinaria idea. L'errore che sto facendo da 10 mesi è di amare ancora il mio ex e sperare sempre di riconquistarlo, anche se ora sta con un altro. Dottor Aquila, sono contenta di questo messaggio, perché in apertura abbiamo detto che il campo in cui solitamente si fanno errori che poi ci fanno veramente sanguinare il cuore, sono quelli che riguardano le relazioni amorose, sentimentali o amicali. Ed è arrivato finalmente questo messaggio firmato Milano, e quindi non sappiamo se sia un uomo o una donna, ma dottor Aquila, è uguale, perché il cuore è... La strategia in questo caso è composta di due semplici elementi: legittimazione e ridimensionamento. Da un lato, se il nostro cuore piange perché continua a volere quella persona, noi dobbiamo considerare legittimo questo sentimento. subito dopo dobbiamo cercare però di rimpicciolirlo anziché nutrirlo. Se il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice per tutto il giorno sente canzoni struggenti d'amore che gli ricordano quella persona, è lui o lei che pompa il suo malessere. Mentre invece una strategia efficace può essere legittimare e contemporaneamente ridimensionare, non consentendo alla nostra attenzione di restare bloccata per tante ore sempre sullo stesso tema. In questo modo, lentamente, la scritta del nome del partner di prima si sbiadirà dal nostro cuore e potremo pian piano riaprire altre parentesi ed essere felici come prima di incontrare questa persona, perché noi eravamo felici o comunque sereni prima di questa relazione, possiamo tornarlo a essere anche dopo. È proprio il caso di dire che sbagliando si impara e c'è sempre da imparare, ci sono degli errori ad esempio che possono essere diversi, alcuni nascono da banali disattenzioni, eppure alcune di queste hanno cambiato il corso della scienza. In linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Dottor Gargiulo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Sì, effettivamente è vero questo discorso che la scienza ha cambiato il suo percorso per un errore a volte banale, per una distrazione. Abbiamo l'esempio più evidente che è quello di Fleming alla scoperta della penicillina, una muffa che si forma su una piastra dove ha seminato dei batteri e si accorge che qualcosa cambia. Ancora più avanti nel tempo, più recente, abbiamo Warren e Marshall che scoprono che l'ulcera, la gastrite, sono dovute ad un batterio. Anche lì una distrazione, una piastra lasciata in un termostato più a lungo del necessario e sono venute fuori queste culture. Quindi bisogna riuscire a capire però che l'errore, se fosse successo a me, io avrei preso tutto, avrei buttato tutto, avrei ricominciato. È la genialità dello scienziato che si viene fuori in questi casi. Ecco, Fleming ha avuto l'intuizione l'ha avuta anche Marshall, per cui bisogna capire i propri errori e su quelli poi certamente correggere il proprio modo di fare e soprattutto intuire che c'è qualcosa. E quindi fidarsi anche un po' di sé, chissà che cosa dice il dottor Aquilar. Sono d'accordissimo sul fidarsi di sé, sul dichiarare l'errore, sul non aver paura di esporsi rispetto a questo. Prima, quando parlava il professor Patota, il linguista, io mi sono ricordato di un errore che mi è stato imputato proprio dall'Accademia della Crusca, perché in un mio libro avevo scritto accortenza, che è un napoletanismo, piuttosto che accortezza, e dichiariamo l'errore e facciamo ammenda, come no? Grazie dottor Gargiulo per essere stato con noi, la saluto e la ringrazio. Grazie, noi, arrivederci. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e torniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Perché non ti rilassi e vai avanti nella vita? Non importa quello che è avvenuto in passato o quello che credi potrebbe avvenire in futuro, importa il tragitto. E sai che ti dico? Quando meno te lo aspetti potrebbe capitare qualcosa di bello, più importante di quello che avevi programmato. Dottor Aquilar, questa è un po' la direzione che dobbiamo tenere. Certamente, piuttosto che raggiungere la meta, dobbiamo imparare a goderci il viaggio e durante il viaggio possiamo imparare anche dagli errori di direzione a scoprire settori, sentimenti, novità dentro noi stessi e negli altri che non potevamo neanche lontanamente immaginare di avere. Marco, buongiorno, ci chiama da Bergamo all'800 24 0024. Buongiorno. Salve, buongiorno. Marco. No, io volevo parlare di un errore che ho fatto quest'anno. Cioè ho portato avanti per 6 mesi una relazione con una ragazza fidanzata e all'inizio per me non era un problema, non era un errore, perché pensavo fosse un problema suo il fatto di essere fidanzata. Poi dopo passare il tempo invece mi sono reso conto che stava maturando in me un forte senso di colpa per questo fatto e ho maturato il fatto che questa cosa per me era un errore e quindi questo senso di colpa adesso ho interrotto la relazione, mi attanaglia, mi stringe, mi angoscia e non riuscivo a liberarmene. E quindi ho chiamato per sapere un parere da parte del dottore. Grazie Marco. Dottor Aquilar. E questi sono gli errori piuttosto frequenti dei quali spesso parliamo in psicoterapia. È naturale che Marco è un essere umano e ha provato dei sentimenti molto forti nei confronti di questa ragazza e probabilmente inizialmente si aspettava che questa ragazza riuscisse a definire la sua relazione precedente in tempi brevi, cosa che non è successa evidentemente. E allora qua tocchiamo altri due temi importanti rispetto agli errori. Il primo è la gestione del tempo. Ci conviene darci un tempo e dare anche alle persone che a noi sono care un tempo per lavorare su alcuni sentimenti e prendere delle decisioni che hanno a che fare con questi sentimenti. E il secondo punto è quello del ridirezionare l'attenzione quando, per esempio, quel tempo che a noi è sembrato ragionevole è scaduto. E ritorniamo al consiglio di prima: legittimare e ridimensionare. Io legittimo il fatto di essere innamorato di una ragazza che però continua a restare con il suo vecchio fidanzato, aspetto un congruo tempo di alcune settimane per darle la possibilità di leggere dentro se stessa qual è la sua preferenza, dopodiché tronco e resto triste in attesa di sue eventuali comunicazioni. Quanto dura la fase di autoattacco? Questo me lo sono appuntato, è stata una delle domande che lei ha rivolto ai nostri ascoltatori in apertura. E questo mi fa tornare al senso di colpa che Marco prova proprio perché ha fatto questo errore per questa sua relazione. Come si cancella, si attenua, si vive il senso di colpa? L'autoattacco è quasi sempre un'azione inutile. Perché noi possiamo apprendere dai nostri errori se restiamo sereni. Come dicevamo prima, siamo esseri umani, possiamo sbagliare, i sentimenti a volte prendono il sopravvento su di noi, ma l'obiettivo della mia domanda sull'autoattacco era di scoraggiare le persone dall'autoattaccarsi. È dimostrato da moltissime ricerche che gli autoattacchi portano depressione, portano malessere, portano ansia. Allora l'idea è di legittimare e ridimensionare. È legittimo che io mi autoattacchi per aver fatto una cosa che avrei preferito non fare, però sulla base di un'emozione forte, poi cerco di rimpicciolirla e di abbreviarlo da un anno a un mese, a una settimana, a un'ora, forse ci possiamo fare un autoattacco di un minuto e poi ci perdoniamo e va molto meglio. Avrei dovuto saperlo, ci sono caduta. Ogni giorno che rientrava da quella porta le chiedevo com'è andata la lezione di ballo e lei, bene, colpa mia, dovrei aver imparato a non fidarmi, sì, dovrei aver imparato che quando uno dei nostri figli mi dice bene, in realtà significa ora le dico la prima cosa che mi salta in mente purché stia zitta e non mi controlli. I figli anche loro sbagliano, noi genitori abbiamo la tendenza ad anticipare addirittura i loro sbagli, no? Li vediamo e quindi ancora li correggiamo ancora prima. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Pellai. Ciao Alberto, medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, si sbaglia da piccoli, si sbaglia da grandi, perché, come stiamo dicendo oggi, sbagliando si impara. I genitori però nel correggere gli errori dei figli sbagliano a loro volta. Allora, cosa fare? Come fare? Ma direi che un aspetto è proprio legato all'emozione che il genitore mette nel momento in cui sgrida, ecco, un figlio per il proprio errore. Cioè il figlio ha la percezione che il proprio errore rappresenti poi un fallimento non suo ma del genitore, per cui un genitore che è molto arrabbiato, molto attivato emotivamente dall'errore del figlio, racconta al figlio: quando tu sbagli mi fai stare male, mi fai sentire male, e quindi il figlio si sente colpevole non dell'errore che ha fatto ma del male che genera il genitore. Quindi questo è proprio un aspetto di metodo, l'invischiamento emotivo dell'adulto che fa sentire che l'errore del figlio è una sorta di attacco al cuore diretto contro il genitore, è proprio una cosa da evitare. Invece il secondo aspetto è che molte volte quando un figlio sbaglia noi siamo davvero bravi a sottolineare l'errore, cioè a fargli vedere tutto quello che ha fatto di sbagliato, e ci dimentichiamo invece di dare la parte che serve veramente a un figlio, cioè la parte come avrebbe dovuto essere, come avrebbero dovuto andare le cose, come si fa a fare giusto. Questo è un'azione di modeling invece, proprio di modellamento del risultato atteso, quindi molto più utile con un bambino non dirgli cosa ha sbagliato, ma che cosa io mi aspetto da te che succeda adesso, quindi in qualche modo come si può riparare l'errore e come si può fare la cosa giusta. Voglio commentare con voi, con te Alberto e il dottor Aquila, un messaggio che mi è arrivato ora. Il momento più bello è leggere la sorpresa degli altri quando perdoniamo un loro errore grave. Alberto. Sì, direi che poi questa è proprio una di quelle cose che al bambino serve tantissimo, cioè se io, dopo che tu hai fatto un errore, comunque non ti lascio nell'angoscia della delusione che mi hai procurato, ma so immediatamente ricostruire quello che per un bambino è il micro trauma relazionale legato al fatto che la relazione tra me e te si è interrotta per causa del mio errore, quello è il dono più grande. Tra le altre cose è un fortissimo motivatore nel bambino a fare la cosa giusta, proprio perché ti voglio bene mamma e ti voglio bene papà. Grazie ad Alberto Pellai per essere stato con noi. Buona giornata Alberto, a presto. Voi, buona giornata. Dottor Aquilar, a proposito di perdonare gli errori degli altri, dovremmo dedicare un tema intero a questa puntata, perché sono arrivati tanti sms di ascoltatori che mi chiedono se c'è una strategia, perché ci sono errori che non riusciamo a perdonare, ma questo lo sappiamo tutti, ci fa stare male, mette dentro il nostro cuore una ruggine che poi si indurisce ed è difficile da mandare via. Dottor Aquilar. Certamente, molti autori sostengono che il perdono è la forma più alta di metacognizione, cioè di pensiero in grado di andare al di là di se stesso. E l'altro aspetto interessante era la sorpresa degli altri, l'emozione di sorpresa, anche su questo potremmo dedicare un'intera trasmissione, è un'emozione importantissima perché apre delle chiavi al passaggio da un'emozione all'altra e al trovare delle assolute novità dentro noi stessi e dentro gli altri che sono interessantissime. Il perdono nei confronti dei bambini ovviamente è facile e, ritornando a quello che diceva Alberto Pellai, dobbiamo anche rinforzarli per i risultati buoni. Noi dobbiamo, magari su 100 cose che un bambino ha fatto bene in un giorno, ci limitiamo a rimproverarne una contro le altre 99. Mentre invece per quello che riguarda il perdono degli adulti serve appunto di ricordarci che siamo tutti esseri umani e che siamo tutti in condizione di poter commettere degli errori, ma anche per poter essere perdonati il più delle volte c'è bisogno di un minimo di autoconsapevolezza di chi ha commesso l'errore, perché altrimenti diventa difficilissimo perdonarli, a meno che non siamo San Francesco d'Assisi. No, assolutamente, ma bisogna banalmente, come mi scrive Marta, imparare a chiedere scusa, ho sbagliato, un po' la stessa cosa che ci diceva il professor Patota, cioè non è tanto l'errore quanto la presunzione che tante volte indispettisce. Certamente, la presunzione indispettisce perché allontana, perché anziché lavorare su un piano di cooperazione, che è quello che ci dovrebbe riguardare in tutte le relazioni significative, anche quando è una cooperazione tra un adulto e un bambino all'interno del processo educativo, alcune persone danno la precedenza alla competizione e competono anche nella azione. Bisogna anche dire che le scuse vanno chieste, ma bisogna anche saperle accettare. Per questo faremo un'altra puntata. Intanto, se volete trasferirvi sulla nostra pagina di Facebook con i vostri errori, quelli che commettete di più, quelli da che avete smesso di fare, quelli da cui avete imparato, appuntamento con il dottor Aquilar. Grazie dottore, buona Grazie giornata, buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì con una puntata dedicata ai peli e forse anche ai capelli. Scrivetemi se vi piace di più, tutte entrambe. A tra poco, a lunedì. Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.